minutino di ritardo, ma lo recuperiamo e come per il Jazz Live odierno, 27 ottobre 2023, ultimo venerdì del mese e anche ultima presentazione per quanto riguarda il Bologna Jazz Festival. Dopodiché entreremo nel vivo dei concerti con approfondimenti vari. Ci sarà anche lo spazio per il weekend dedicato al Torrione, avremo le voci dei protagonisti e inizieremo proprio con questo aspetto. Intanto non dimentichiamo il buongiorno ad Alfredo Pasquali. Buongiorno. E non dimentichiamo, buongiorno Willy, buongiorno. Grazie caro. Si comincia con quello che abbiamo ascoltato facendo un passo indietro, eh? Facciamo così. Quello che abbiamo sentito, sì. Sì, con Danny Noel Confluence Trio, dove troviamo un pianista, Billy O'Connell, che ha collaborato con delle voci veramente importanti come Chet Baker. Lui non è giovanissimo, ma viene definito dallo stesso frontman Danny Noel, da La Habana, lui è cubano, contrabbassista e bassista, si è esibito al basso elettrico, ma lui ha l'entusiasmo di un bambino, così l'ha definito, e in effetti così è stato. L'entusiasmo è stato protagonista anche nella comunicazione, per come ha tenuto il palco Danny Noel, che oltre il talento porta anche un aspetto veramente molto molto comunicativo con il pubblico. È stato un concerto divertente, tanti classici legati alla musica cubana, un boogaloo divertente e allo stesso modo anche con un linguaggio di modern jazz. Quindi un sabato e un main concert che è rimasto vicino alla linea del Torrione, ma allo stesso tempo ha portato delle note vicino a quello che è un aspetto più tropicale boogaloo e cubano. Ho preso un assolo, ho intercettato un assolo dal pianista Bill O'Connell che vi propongo, e poi torniamo in diretta perché abbiamo le voci dei protagonisti e per quella che è la presentazione di quello che è questa sera al Torrione. A tra poco. Questa nota, in questo caso più delicata, per quella che è la realtà del Latin e del Boogaloo in senso di sonorità cubane. Il concerto divertente allo stesso tempo di qualità. Beh, completiamo la formazione con il batterista Alessandro Napolitano. Oh, questo vediamo, questo lo riconosci, non ti faccio neanche il quiz, Alfredo. Questo è il concerto di Arunghez. Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di Gil Evans e Miles Davis la scorsa puntata, ci terranno compagnia anche per questa, in quanto sì, ci sarà il lavoro sulla coppia Miles Davis e Gil Evans, però ho scoperto che sarà incentrata su Sketch of Spain. Ci puoi parlare di questo disco, Alfredo? Beh, a parte che arriva da forse un brano Request, sì, no, è una del 39, credo fosse bravo. Quello l'anno. Mille letture di questo brano che è stupendo. Anche di G-Moll. Sì, ma tanti altri anche fuori dal jazz, evidentemente, perché è uno dei classicissimi. Beh, Gil Evans, come la interpreta, Gil Evans, questa orchestra con i suoni pastelli, quasi un po' separati, un po' lontani, da questa stazione di grande malinconia, che è un capolavoro, una firma d'artista incredibile, e Miles Davis gioca una tromba magistrale, perché non fa niente, non fa dei funambolismi, la Dizzy Gillespie, la Warren McGee, Fats Navarro, chissà che, ha una, come sempre, la tromba misurata, ma ogni nota cade nel momento giusto. E questa sinfonia così, questa melodia così suonata in modo cristallino e da una malinconia dolcissimo, quindi si sposa magistralmente. Tra l'altro fa parte di quel periodo di Davis d'oro, sì. My Head, cioè, Steps Ahead, poi fino a, che poi arriverà fino a Kind of Blue, insomma, certo, sono cioè, quelle... l'accompagnamento a Kind of Blue, sì, è un momento quello che per Davis, ma direi per tutto il jazz dal 57 al 62, un momento forse irripetibile. Allora, noi ne ascoltiamo qualche nota, poi entriamo ufficialmente con il Venerdì del Torrione curato da Fresh and Bold. A tra poco. Questo brano, che è il concerto di Arundhat ripreso da Sketch of Spain, o questo lavoro invece ripreso da Jim Hall, dove vi è un assolo di Paul Desmond che è una cosa veramente sconvolgente, di una bellezza. Hai detto poco, Jim Hall, Paul Desmond. Ma come avevo preannunciato prima dello stacco musicale, la rassegna Fresh and Bold in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara questa sera alle 21.30 vedrà protagonista al Torrione Simone Lamaida Trio, e intanto siamo riusciti a raggiungerlo, sono stato molto insistente, quindi mi scuso, però do il buongiorno a Simone. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno William. Ma che bella R che hai, mi ricorda qualcuno, ecco, comunque. Siamo particolari, abbiamo questo colore così, esatto. Particolare. Non è un difetto di pronuncia, siamo particolari, ecco, diciamo. Esatto, esatto. Nessun difetto. No, anzi, ascolta, cosa ascolteremo questa sera al Torrione, Simone? Allora, diciamo che suonerò in trio con Alessandro Paternesi alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso, due musicisti spettacolari, nonché amici carissimi, quindi diciamo che la formazione è, diciamo, già affiatata anche fuori dal palco. E diciamo che il trio si chiama appunto Give and Take, proprio perché questa cosa del dare e prendere cerca di stare un po' in equilibrio tra la musica scritta, diciamo, e la musica totalmente improvvisata, quindi da zero. E per cui ascolterete musica organizzata, diciamo, con lo spazio per l'improvvisazione ovviamente, e musica organizzata in modo estemporaneo. Sì, ok. E vedo che c'è R&B, funky, insomma, un give and take, anche un give and go, per citare un'azione cestistica, il dai e vai, insomma. Ci esatto, sarà... esatto. E diciamo che si orienta verso il jazz, ovviamente, sì. Però poi alla fine, quando improvvisiamo, sinceramente il genere non riesco a definirlo, quindi potremmo andare a finire su qualsiasi cosa. Ok, guarda, diciamo. Com'è? C'è in conduzione Alfredo Pasquali, che te lo passo, magari anche lui vuole approfondire qualcosa. Esatto. Sì, io coglievo, ciao Simone, coglievo l'occasione. Ciao. Coglievo l'occasione perché so che tu lavori molto sul versante teatrale, hai lavorato con degli attori, musicando anche, mettendo musica originale per poesie, no? Leopardi, sì. Pasquali. Sì, ma sì. Anche hai fatto, non so. Questo Shakespeare in Jazz, cos'è? Il ragtime Macbeth? Quelle sono quelle cose che ho fatto in gioventù, diciamo. Ah, peccati giovanili. No, non sono esatto, peccati di gioventù, sì. Diciamo che è stata un'esperienza, ero piccolo, credo di non aver avuto neanche 20 anni, però è stata un'esperienza molto bella in teatro, perché era uno spettacolo di Giorgio Albertazzi. Ah, musicato da non mi ricordo adesso, mi sfugge, è un pianista storicissimo di Milano, un lapsus freudiano, scusatemi. Mi perdonerà la buonanima. E quindi è stata un'esperienza molto bella, anche molto professionale, al Todi Festival internazionale, insomma, con la presenza anche di insomma del regista, dell'autore, quindi ecco, diciamo, peccati di gioventù. Poi dopo mi sono dedicato ad altro, ecco, diciamo, ampiamente perdonabili, anzi apprezzabili, aggiungo io. Sì, sono esperienze che danno una visione molto importante, secondo me, anche per l'improvvisazione, proprio l'aspetto, diciamo, organizzativo, teatrale. Una bella mi ha insegnato molto, ecco, una bella sì. Esperienza, sì. Assolutamente. E quindi abbiamo studiato un po' anche i tuoi percorsi, vedi, e per la rassegna Freschenburg sappiamo che sei di origine sammarinese, anche questo. Sì, sono vieni dall'estero. Di fatto diciamo. Sammarinese, sì, sono il musicista straniero, ecco, no. Diciamo. Sì. Un altro mondo, insomma. Sì. Ah, dice sì, più o meno, ma insomma alla fine è tutto paese, ecco, anche se è un altro stato. Assomiglia molto alla Romagna, insomma, in qualche modo. È assolutamente Romagna, partendo dal dialetto, andando verso il cibo e le usanze, quindi praticamente il Romagna. Il mondo lo sai, che il gesto è senza confini, quindi ne avremo una possibilità in più. Non mettiamoci dei limiti o delle comparazioni. No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro il trio è proprio fatto apposta per rompere le barriere, i limiti, insomma. Solo l'immaginazione, solo i limiti dell'immaginazione, insomma, diciamo. Certo. Ed è questa sera alle 21:30, apre il weekend al Torrione, rassegna Fresh and Blood in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Simone Lamai da trio, Simone al sax, contralto e soprano, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Alessandro Paternesi, che già abbiamo conosciuto per altri incontri, conclude il trio alla batteria. Noi ti ringraziamo tantissimo, Simone. Davvero. Vi ringrazio io a voi per avermi coinvolto e insomma è sempre bello. Noi coinvolgiamo, sì. E fate molto bene perché bisogna condividere e divulgare. Assolutamente. Grazie a te. Va bene. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Stasera. Ciao. Ciao. Thank you.

Intellettuale, strutturato, Alfredo, questa sì, struttura, anche questa qua, come si diceva prima, vedi quante cose sono tra di loro interconnesse, certo. Dei momenti di funky, momenti di improvvisazione, sì, sai. Una distensione modern jazz, l'arrivo sì. Poi a una scrittura più come spiritual jazz, e l'aspetto della contemporanea presente, comunque oggi è il giorno del Canada, da Gilles Evans viene, è vero, e anche di San Marino vogliamo, sì. Che è presente, non vogliamo dimenticare certamente anche questi microstati che, come però potete ben ascoltare, hanno un'importanza musicale che non è da trascurare. E per quanto riguarda invece, volevo dire una piccola cosa velocissimo, abbiamo citato Angelica, ecco, mi sono messo in contatto con Walter Rovere perché lunedì all'interno dei magazine ci sarà un grandissimo approfondimento sui 70 anni di John Zorn, ecco, quindi tra musica che, come dice Guccini, gli eroi sono tutti giovani e belli. John Zorn non invecchia mai. Non invecchia mai, esattamente. Dai, bando alle nostre divagazioni, abbiamo l'ospite qua per la rassegna istantanea curata da Serico Tonale, a cura di istantanea, scusate. Un altro trio, abbiamo Silvia Valtieri che è qua al telefono con noi. Grazie della disponibilità, buongiorno Silvia. Grazie a voi, ciao, buongiorno. Allora, un omaggio a Dave Frischenberg. Ci puoi parlare di quest'autore? Perché mi ha incuriosito tantissimo, ha ascoltato delle cose, però saperlo dalla protagonista è ulteriormente interessante. A te la parola. Grazie. Sì, è effettivamente un autore che conoscono in pochissimi, ma oltre ad essere veramente prolifico, è davvero super interessante. Ed è uno che negli anni ha passato tutti gli anni 60 a New York a suonare con tutti i più grandi, quindi venendo dalla provincia americana si è trasferito col sogno del jazz, ha cominciato a suonare nei locali fino a suonare con Alcone, Duke Sims, in formazione fissa, poi ha fatto tournée con Day, Betty Carter, insomma ha suonato davvero con tutti in quegli anni lì. E già di suo, insomma, scriveva queste canzoni ispirandosi proprio, insomma, all'era, agli anni 40, la canzone americana, che era proprio quella che stava vivendo in quel momento, con i riferimenti, i grandi riferimenti di Porter e tutti i grandi songwriters, diciamo, di inizio secolo. Anche Mel Torme, addirittura. Assolutamente. Shirley Horn, assolutamente. Sì, perché quello proprio è stato il suo pallino, e dopo ha cominciato a scrivere le sue canzoni, che hanno sempre avuto la caratteristica anche di avere dei testi, delle liriche, diciamo, piuttosto ironiche, insomma, questa era anche un po' parte della sua cifra, oltre al super swing. Tra le sue note, certo. E chi ci sarà con te? Con me avrò Nicola Govoni al contrabbasso e Giacomo Ganzelli alla batteria, che sono gli stessi con cui è nato questo progetto e con i quali abbiamo registrato questo disco che esce oggi proprio, è appena uscito. Bene, quindi ci sarà il Torrione domenica? Assolutamente sì. Beh, io sono maniacale per l'oggetto, non sono per la musica liquida, io ho bisogno del contenuto vero e proprio, per cui e noi ce l'abbiamo. E io ne sono ben contento, anzi guarda, lancio già un tuo brano intanto che facciamo le nostre chiacchiere, The Zoot Walk, immagino sia Zoot Sims. Questo. Sì, esatto, è un pezzo a cui Frischberg aveva messo le parole, è originariamente un brano di Mulligan e Zoot Sims che si chiamava originariamente The Red Door, poi Frischberg ha messo le parole e nelle parole celebra proprio Zoot Sims, dice: se tu arrivi in un locale e c'è Zoot Sims sul palco che sta suonando, chiama a casa, di che fai tardi, perché sarà questo il momento in cui la band comincerà a swingare davvero. Certo, è un buon motivo per intrattenersi, insomma. Esatto. Ti passo Alfredo Pasquali, che è qua in co-conduzione con me. Sì, due cose. Volevo chiedere due cose. La prima, se il tuo disco, che presenterai anche domenica, è, rispetto all'opera di Frischberg, filologica oppure cambia, c'è una tua interpretazione, un rinnovi il suo, il senso e l'anima dell'artista. La seconda è proprio su Fischberg, perché tu parli di queste canzoni, ma sono un po' così, non so se c'è chi dice Woody Allen della musica, perché lui prende in giro il mondo dell'economia. Walking on Wall Street, che sembra molto un pezzo di Davis, invece è su Wall Street, per dirne uno. Oppure l'altro brano così era dedicato a questi spezzoni, film sull'economia che presentava la TV ABC, sempre in modo ironico. Ecco, che personaggio era da questo punto di vista? Perché sembra che la musica sia così lontana da questi mondi finanziari. Verissimo. Rispondo prima alla prima domanda. Nel disco, in realtà, alla fine ci sono 50% dei brani sono di Frischberg e l'altra metà sono i miei. Su quelli di Frischberg, 3 su 4 li ho tradotti in italiano, perché quando il progetto è nato e lo portavamo fuori, era davvero un peccato non riuscire a far passare l'argustia di questi testi, e quindi ho deciso di tradurli di modo che arrivassero in maniera più diretta anche al pubblico italiano. E gli altri pezzi che ci sono nel disco, che sono i miei originali, sono pezzi che comunque sono stati in qualche modo ispirati o comunque con i quali mi sono trovata in sintonia rispetto alla figura di Frischberg. Bene. I brani, quei brani sulla finanza, diciamo, sono stati un po' una seconda vita super prolifica di Frischberg, perché dopo il decennio passato a New York cominciò a lavorare a Los Angeles per la televisione, e per la televisione scriveva questi brani che facevano parte di una trasmissione che si chiamava Schoolhouse Rock. Era una trasmissione, certo, per bambini, dove c'erano corti di animazione, quindi cartoni animati fondamentalmente, pensati per spiegare ai ragazzi dei concetti difficili, come poteva essere Wall Street, la borsa, o anche cose più semplici come la paghetta settimanale. E quindi lui scriveva queste canzoni che erano didattiche, diciamo, però musicalmente avevano sempre comunque molto da dire. Certo, a noi portavano alla cassa di risparmio, ci aprivano il librettino con 100 lire. Beh, sì, lui metteva la colonna sonora a tutto ciò, hai capito? Insomma, di Stefano Bollani antilitteram in qualche modo era. Molto bene, grazie di cuore per questa tua partecipazione, un piacere averti conosciuto. Silvia Valtieri con grazie il trio, l'omaggio a Dave Frischberg, che abbiamo conosciuto a sua volta attraverso le parole di Silvia. Domenica 29 ottobre alle ore 21 concluderà il weekend al Torrione per quanto riguarda Serico Tonale a cura di Istantanea. Ascoltiamo The Tooth Walk, poi andiamo in pubblicità e intanto ci congediamo da Silvia. Grazie, ciao, ciao. Ciao. Grazie a voi, ciao. Grazie. about to begin.